Mira il campo all'intorno che sen giace in riposo. All'improvviso, ecco, ecco suona il tamburo. Che rumor, che sussurro, allerta, allerta. Coreonion prende l'armi. Il capitano di qua di là s'aggira, ordinando le schiere, i fanti, i cavalli e le bandiere. Si comincia la marcia. E un passo lento lo squadron si incammina. Presto, presto, affrettate, si scopre il campo ostile. Alto, fermate, già la bella nemica ecco ne vien. Su via, spirito, valore, se tu la vinci, sarà tuo quel cuore.